Tiro fuori il cazzo, quella troia mi fa un flash ma parlo a Moncler vestito bene in polo Lacoste. Esci fare tricky nella pussy, entro sesso. Cash money ma ci mangio, fatto fare burn. Cazzo, quella troia mi fa un flash ma parlo a Moncler vestito bene in volo Lacoste. Esci bar Twiki nella bussi, entro sesso. Cash money ma ci mangio, ho fatto fare bankroll. Ora lascio spazio ad un russo asshole. A me frega un cazzo, sto sui soldi come fossi a $multi-million, bitch, mi take a body swag off. Faccio saltare il culo in aria, mi sembra un airbag off. Se uno su un milione ce la fa, allora un cap, yeah. Passettiamo in zona con una botta nella becchia. Sembra una malattia per come ti entro nella testa. Ho fatto un casino, sono il capo della festa. Quando entro nel club fanno segnali dal vecchio. Arrivo sul palco, sembra un cane armato black. Stasera sembra il mio compleanno, mi dropperanno una bag, yeah. I don't give a fuck, a body speech, stasera sesso. Tiro fuori il cazzo, quella droga mi fa un flash ma parlo a Moncler vestito bene in volo Lacoste. Esci per le tricky nella pussy, entro sesso. Cash money ma ci mangio, ho fatto fare bankroll. Ora lascio spazio ad un russo asshole. A me frega un cazzo, sto sui soldi come fossi ebreo. $multi-million, bitch, mi becchia pali swag off. Faccio saltare il culo in aria, mi sembra un airbag off.